Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno, benvenuti, Luca Tremolada al microfono, sono le 16.32, oggi puntata è dedicata alla dipendenza e alle dipendenze da sostanze chimiche, alle dipendenze invece da altri internet. Fattori, da internet come dai videogiochi. Noi avremo con noi Riccardo Gatti, che è il direttore del Dipartimento ASL di Milano delle dipendenze, e Stefano Canali, ricercatore della SISSA. Ma prima di entrare nel merito, e chiaramente Luca Dello Iacovo, che è qui con me, che non mi ricordo, ti ho presentato? Sì. Ah, te l'ho già presentato, adesso. Perfetto. Adesso, ecco, vedi. E naturalmente Luca Dello Iacovo, ma prima le news. Sbarcano su internet 2300 applicazioni per iPad, il tablet computer della Apple. Sono progettate in base a un'interfaccia naturale per l'utilizzo diretto con le mani. Alcuni quotidiani hanno già lanciato i loro software per i lettori. Il New York Times ha scelto un'applicazione gratuita con una selezione di articoli pubblicati sul sito web. L'iPad sarà in vendita a partire da domani. Conquista terreno il browser Firefox. In Europa 4 persone su 10 usano il software della Fondazione Mozilla per navigare sul web, ma la battaglia per conquistare pubblico è aperta. Internet Explorer di Microsoft ha perso nell'ultimo mese quasi l'1%. Secondo gli analisti di mercato, il maggiore beneficiario è Chrome, il browser di Google. Guadagnano anche i software Safari e Opera. Passiamo alle scienze. È partita dal Kazakistan la navicella russa Soyuz. In 2 giorni raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale. L'equipaggio a bordo è composto da 3 persone. Gli astronauti resteranno in orbita per 6 mesi e lavoreranno alla costruzione di nuovi moduli. Allora, è sempre più difficile, insomma, dare una definizione alla dipendenza, sia per un aspetto clinico, sia dal punto di vista clinico, che dal punto di vista invece più umanistica, più morale, diciamo. Più sociale, direi, infatti. Più legato anche a quanto uno poi sente il bisogno, la compulsione anche di qualcosa. Certo. Ecco, infatti, noi oggi proviamo ad affrontare questo tema importante. Tra l'altro sono uscite in questi giorni un po' di notizie strane. Una clinica per smettere di giocare compulsivamente ai videogame è stata inaugurata a Brusson, in Val d'Aosta, ma anche altre notizie che ha trovato Luca Dello Iacovo. Le sentiamo e poi torniamo in studio. Apre a Londra una clinica per affrontare la dipendenza da internet. I pazienti sono adolescenti immersi nel mondo digitale, anzi fagocitati dalla navigazione sugli spazi del web, videogiochi, social network, blog. Il centralino dell'ospedale inglese per tecnomaniaci è già stato sommerso da telefonate di genitori preoccupati. In Corea del Sud, 2 milioni di giovani affrontano i danni dovuti a un bisogno eccessivo di connessione a internet. Ma restano incertezze sulle cure più efficaci. Il governo di Seoul ha offerto un software gratuito per limitare il tempo trascorso online. Il collegamento viene interrotto automaticamente da un orologio digitale. Eppure i dubbi sulle dipendenze dal web sono molti. Non esiste una definizione specifica accettata dalla comunità scientifica e le terapie sono ancora in fase di sviluppo. Allora, io partirei dal ricercatore della SISSA Stefano Canali. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei si domanda e si dà anche una risposta. Le dipendenze, vizio dell'anima o patologia del cervello? Insomma, la discussione per anni è stata un po' legata a questi due punti di riferimento, ma mi sembra di capire che sia un errore concettuale. Senz'altro, perché lo stato dell'arte della ricerca neurobiologica sui fenomeni legati alla dipendenza da sostanze o altri comportamenti compulsivi dimostrano che, essendo questi disturbi ormai considerati come una patologia dell'apprendimento e della cognizione, non c'è una differenza sostanziale tra ciò che attiene alla dimensione morale dell'individuo che agisce e ciò che invece è il distillato di processi biologici che avvengono all'interno del suo cervello o sotto l'effetto di sostanze o durante l'esecuzione di questi comportamenti compulsivi. Non c'è nessuna differenza, il cervello è un alambicco che distilla l'anima, diceva la Jules Senard nello Zenone, e quindi qualunque tipo di fenomeno si riflette in alterazioni delle sue funzioni biochimiche e bioelettriche, sia che questi fenomeni siano d'ordine culturale o morale, sia che siano d'ordine farmacologico. Ecco, questo però è una definizione, un approccio di ricerca, però poi nel momento in cui si affronta il problema delle dipendenze bisogna scegliere in un certo senso che giacca indossare o no, è sbagliato? Purtroppo dice bene, purtroppo a livello clinico diciamo c'è una certa resistenza, come avviene sempre in tutti gli ambiti medici, a assimilare gli avanzamenti della ricerca, e diciamo in ambito clinico prevale un atteggiamento fisiopatologico che non tiene conto di una prospettiva più alta, che sta più ampia che sta emergendo, che è una prospettiva genuinamente biologica, evoluzionistica, diciamo ecologica, sistemica, cioè che è capace di contemplare, come dicevo prima, i riflessi biologici dei fattori culturali, e quindi trovare una mediazione tra ciò che fa la cultura, un individuo, e ciò che avviene dentro il cervello di un individuo. Ecco, quali sono però i riflessi biologici di cui parliamo? Cioè, quando parliamo, se è questo l'argomento, di un rapporto tra la cultura e la biologia, quindi tra i discorsi e quello che è il corpo, ecco, di che cosa stiamo parlando relativamente alle dipendenze? Sì, relativamente alle dipendenze parliamo di un fatto che appunto la dipendenza sembra essere innescata da meccanismi che normalmente nell'individuo servono a promuovere gli apprendimenti utili alla sopravvivenza dell'individuo e della specie. Parliamo di un sistema cerebrale che è molto complesso, che parte dal profondo del cervello, laddove c'è qualche azione che può essere un esempio? Cioè, quando io, sì, non so, leggo un libro, c'è qualcosa di simile alla dipendenza? Non ho capito, chiedo scusa. Quando io leggo un libro e quindi sto apprendendo qualcosa, è un meccanismo che è legato in qualche modo alle dipendenze? No, diciamo che la dipendenza è un fenomeno appeso, un fenomeno di apprendimento, un apprendimento patologico, perché come stavo dicendo prima, sostanze che inducono forme di uso compulsivo, o anche comportamenti che inducono forme di uso compulsivo, dipendono da un'attivazione alterata di un sistema che si chiama sistema di ricompensa cerebrale, che tende a fissare quei comportamenti nell'individuo che sono utili alla sopravvivenza appunto di un individuo della specie, come il mangiare, il bere. Ecco, noi abbiamo sentito prima nella scheda, insomma, che si ragionava anche su internet piuttosto che sui videogame, che insomma, viste un po' dall'alto, ma visto anche in maniera un po' ingenua, sembrano cose ben differenti dalle tossicodipendenze, per cui dalle sostanze come l'alcolismo, come l'alcol, come le droghe pesanti. Esatto, questa era la visione che restava prima, la differenziazione di comportamenti in cui non era in gioco una sostanza e comportamenti in cui invece compulsivi, in cui era in gioco una sostanza, per l'appunto. Se si considera la dipendenza non più come un fenomeno in cui sono in gioco una tolleranza a una sostanza e un'eventuale sindrome d'astinenza, ma piuttosto come comportamenti in cui si è perso il controllo cognitivo del comportamento stesso, il controllo razionale, cioè si sa che uno sta facendo una cosa che non dovrebbe, ma la fa comunque perché prova un desiderio irresistibile nel farla. Ciò dipende appunto dal fatto che ormai nelle neuroscienze questa condizione è, diciamo, contemplata come un disturbo dell'apprendimento, quindi che sia una sostanza a mediare questa perdita del controllo degli impulsi o che siano altri stimoli d'ordine culturale e tecnologico, non c'è nessuna differenza. Diciamo che stimoli d'ordine tecnologico come internet o altro e stimoli d'ordine farmacologico come le sostanze d'abuso si impossessano e sequestrano questo sistema di ricompensa cerebrale e promuovono la costruzione, la ricostruzione dei circuiti nervosi che mediano il comportamento, che controllano il comportamento. È chiara la sua, insomma, la sua analisi e la sua visione delle dipendenze. Io volevo capire con Riccardo Gatti se anche lui era d'accordo. Ma direi che la visione di chi poi si occupa di queste cose dal punto di vista della cura e della riabilitazione, cioè del riacquisire abilità perse, è una visione che perlomeno nei nostri servizi, quelli per le dipendenze, giusto appunto, è una visione che ha sempre tenuto conto di questi fattori, tant'è vero che fin dall'inizio, fin da quando questi servizi sono nati come servizi multidisciplinari, in cui le discipline che avevano a che fare con le scienze sociali, con la psicologia e con la medicina dovevano trovare un equilibrio in equip multidisciplinare su piani terapeutici individualizzati. Quindi, per semplificare, magari si interviene sui comportamenti, però si interviene anche da un punto di vista più, diciamo, medico, più farmacologico? Beh, per farlo capire in termini semplici, quando si verifica una situazione di dipendenza è come se nella vita di una persona si creasse una sorta di nodo che va sbrogliato, bisogna trovare i capi di questo nodo e sciogliere la matassa, perché la matassa non sta mai da una parte sola, quindi l'intervento non può essere semplicemente un farmaco piuttosto che un ragionamento, piuttosto che una psicoterapia, piuttosto che un intervento sul sociale. Bisogna calibrare la situazione, cercare di fare una diagnosi e capire dove stanno i nodi e scioglierli, quindi questo è sempre stato il nostro lavoro. Poi sa, le dipendenze a volte si sono, a volte si creano, a volte nel modo di vederle si creano anche delle mode. Riguardo alle dipendenze da nuovi media, non so se voi avete fatto caso che hanno seppellito le dipendenze da vecchi media, cioè per esempio un po' di anni fa si parlava della dipendenza dalla televisione, c'erano stati anche degli studi in proposito, adesso improvvisamente sembra che la dipendenza dal vecchio media televisivo sia sparita. Si era parlato anche della sindrome da mouse, cioè adesso non c'entrava nulla, cioè c'entra però nel senso che poi io da paziente e anche da soggetto ipocondriaco mi domando anche come si decidono anche questi confini? Ma guardi, di solito i confini di queste cose stanno in qualche cosa che è molto comprensibile da tutti, cioè nel senso che si incomincia a definire patologico qualche cosa quando incomincia a danneggiare quella che è la tua vita di relazione, i tuoi compiti sociali normali, le cose che devi fare, quello che devi essere, cioè quindi quando l'interferenza diventa pesante. Però attenzione, perché molto spesso si usa il termine dipendenza a sproposito per molte cose, ci sono delle patologie mentali che hanno a che fare con i disturbi ossessivi e compulsivi che poi vengono ridefinite dipendenze a seconda dei momenti storici, anche, come ripeto, delle mode. Detto questo, per lei è una moda Intel la dipendenza da internet? Sì, perché adesso internet sta colpendo la fantasia di tutti, sta cambiando la vita di tutti e di conseguenza si fa più caso a certi disturbi che hanno come sintomo l'utilizzo esagerato del mezzo. Non sempre è una dipendenza del mezzo, ma può essere anche una patologia dell'individuo che sfocia in questa direzione, ma avrebbe potuto anche sfociare in un'altra direzione. Certo. A volte invece si tratta di vere e proprie dipendenze, a volte no, anche per quanto riguarda le sostanze, perché normalmente chi usa sostanze si tende a definirlo un tossicodipendente, però in realtà la maggior parte delle persone che usano droghe e che hanno problemi dall'uso di droghe non sono tossicodipendenti. La tossicodipendenza è una delle cose che possono succedere usando le droghe. La interrompo un attimo perché diamo la linea al traffico, poi torniamo con lei e vediamo di capire come invece internet può essere anche uno strumento per monitorare, per divulgare, per insomma creare consapevolezza su questi temi. Nova Lab 24. Ritorniamo in studio, 16:47. Luca. Abbiamo Riccardo Gatti, che è il direttore scientifico dell'Osservatorio regionale delle dipendenze della regione Lombardia. E anche Stefano Canale, ricercatore della SISSA. Ecco, con Gatti sarebbe interessante capire una cosa. Quindi, come internet sta cambiando il consumo e la distribuzione poi delle sostanze stupefacenti? E cioè, è vero quindi che attraverso internet c'è un modo diverso di formarsi l'opinione sull'uso delle droghe e il modo stesso, diciamo, in cui le persone ne raccontano l'assunzione? Beh, non sta soltanto cambiando il modo di consumare le droghe attraverso internet e di crearsi un'opinione rispetto alle droghe, ma sta cambiando il modo di crearsi un'opinione rispetto a qualsiasi tipo di consumo. E questo sta tra l'altro mandando, diciamo, in crisi, ma potrebbe essere anche una crisi positiva, diversi settori che devono ripensarsi, si pensi per esempio al settore dell'informazione in generale. Diciamo che per quanto riguarda le droghe, la mia sensazione è che internet sarà il campo di battaglia tra i vecchi e i nuovi mercati nei prossimi anni, anzi secondo me questa battaglia nella creazione di opinioni favorevoli al consumo è già nata. In che senso? Nel senso che internet ha avuto il merito accorciare la pipeline che c'è tra chi produce o distribuisce un prodotto e chi lo consuma. E di conseguenza questo sta creando un mercato alternativo delle sostanze d'abuso che si possono direttamente comprare a livello di rete. Dagli oppiacei a droghe che non sono tabellate, nel senso che non sono definite classicamente degli stupefacenti ai sensi di legge, ma possono essere usate come droghe, a precursori di droghe, tipo semi, spore, eccetera, sulla rete vengono vendute e hanno una distribuzione molto rapida. Ma non vengono bloccati alla frontiera questi? No, non vengono bloccati alla frontiera, vengono bloccati alla frontiera in alcuni casi, ma la vendita di questi prodotti, nella maggior parte dei casi, è assolutamente lecita. È come un acquisto normale su internet, e in un certo modo normale. Quindi si acquista direttamente dal venditore, quindi in questo senso si accorcia la filiera. Ecco, come si contrasta? Come si contrasta? Perché chiaramente non mi dica chiudiamo internet, perché altrimenti mi... Ma no, assolutamente no, ci mancherebbe altro. No, sa di questi tempi. Sta offrendo un mucchio di possibilità impensate fino a qualche anno fa, evidentemente queste possibilità le attribuisce a tutti, cioè a chi vuol fare delle cose positive, ma anche a chi vuol fare delle cose negative. Il problema è invece di chi esce dalla cultura della televisione, quindi da una cultura in cui il consumo è spinto, ma in un modo codificato, con la pubblicità, con le televendite, comunque con un controllo di editori, di programmatori, di promotori, e si addentra in un mondo in cui invece questo controllo non esiste più, no? Così come per le informazioni in generale, una volta era il compito del giornalista distinguere la notizia dalla bufala, per le informazioni al consumo che arrivano su internet, le persone che entrano nella rete devono essere loro a costruirsi critica e giudizio, ma non è detto che lo sappiano fare rapidamente. In questo momento la rete viene vista un po' come un tempo veniva visto il vecchio mezzo televisivo, in un modo un po' incantato, per cui uno è portato a pensare che tutto quello che si dice in maniera autorevole su internet sia reale, per cui ecco, uno... Ma conta poi quindi soprattutto l'opinione degli amici, l'opinione dei pari, quindi più che l'opinione di altri poi nel decidere il consumo di sostanze stupefacenti allora su internet? Beh, senz'altro l'opinione degli amici e quindi anche degli amici con cui ti aggreghi con i nuovi mezzi di aggregazione, con il microblogging piuttosto che a livello dei social network in generale, è una cosa molto importante. Spesso da loro ti fai dire che cosa è opportuno e non è opportuno fare, però attenzione, non bisogna essere ingenui, perché la rete... Però la mia impressione è che poi di fatto questo mondo, io non lo conosco, sì, per cui sicuramente lei me lo può anche raccontare, sì, però sia poi un mondo molto più reale che virtuale, nel senso che si guardano bene da usare internet per determinate operazioni, ma anche per scambiarsi informazioni. Io penso all'altra parte, la parte positiva, ai gruppi di aiuto, gli alcolisti anonimi, queste organizzazioni sul territorio che di fatto danno una mano concreta. Il suo parere su questo tema, cioè che di fatto poi esiste poi una presenza sul territorio che è estremamente importante. Ma guardi, che internet sia una realtà virtuale, diciamo così, tra virgolette, una palla, cioè nel senso che internet è un mezzo che fa parte della nostra realtà e quindi è molto molto concreta e può essere usata anche in un modo molto positivo. Certo, però mi immagino che utilizzarla per fare degli scambi o per dare informazioni sulla rete, visto che insomma sappiamo che internet non è un posto dove la privacy viene completamente rassicurata, cioè nel senso... ma anche loro, ecco, chiunque poi parli su internet o scriva, soprattutto i giovani poi, hanno una consapevolezza del fatto che è uno spazio pubblico, cioè sanno che nel momento in cui, sì, molti sanno, ecco, nel momento in cui scrivono, quello che scrivono è visibile quantomeno ai loro amici, forse non sono tanto consapevoli che è visibile anche a tanti anche altri. Anche ad altre persone, è così? C'è anche... Allora, non dobbiamo pensare che tutte le persone che usano sostanze pensino di fare qualche cosa di sordido da nascondere. Ci sono anche persone che sono convinte del loro consumo e che quindi lo dichiarano e ne parlano perché ritengono di avere fatto una scelta che per loro è importante e lo mettono in comune con gli altri. E poi attenzione però, che poi dopo la rete può essere anche un veicolo promozionale, quindi ci può essere chi lavora per creare opinione. Cioè se per noi... fare pubblicità, in effetti. Eh beh, certo, no, evidentemente sulla rete, siccome è un mezzo diverso da quelli tradizionali, si possono usare modi promozionali che sono diversi da quelli tradizionali, però non dimentichiamoci che anche nelle vecchie chat del Videotel c'erano quelli che si occupavano di far sì di attirare i clienti in qualche certo. modo. E quindi diventa uno strumento di persuasione, può diventare uno strumento di persuasione, può, ed è qualcosa forse a cui fare attenzione, ecco, ricordando il fatto che, come diceva lei, con la televisione all'inizio si era un po' tutti ingenui, così adesso su internet magari si è anche un po' ingenui. Ecco, chiediamo anche un parere a Stefano Canali proprio su questo tema qui. Abbiamo un minuto. Sì, a me viene in mente una cosa che potrebbe in qualche modo far riconsiderare la natura effettiva di fenomeni un po' di perdita di controllo nell'uso di internet. Ecco, noi quando ragioniamo soprattutto con i ragazzi dobbiamo considerare che dal punto di vista neurobiologico i ragazzi hanno parti del cervello non ancora completamente maturate, sono quelle della corteccia frontale, laddove risiede la capacità di controllo, la consapevolezza. E quindi certi stimoli, il nuovo che possono trovare su internet così facilmente, l'imprevisto, che sono tutti segnali che dal punto di vista biologico attivano il piacere, no? Ammediano il piacere e quindi la voglia di continuare a scoprire. Noi siamo evolutivamente dei cacciatori, degli esploratori, raccoglitori, abbiamo bisogno di novità e di stimoli. Canali. Ci stanno sfumando purtroppo, per cui però mi sembra chiaro il concetto. Io la ringrazio di aver partecipato alla trasmissione, ringrazio anche Riccardo Gatti, io e Luca Dello Iacco facciamo gli auguri di buona Pasqua. Auguri. E ci sentiamo lunedì alle 16:30.